Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Torniamo a occuparci di biomasse e in particolare di una tecnologia, la gassificazione, che ha una serie di vantaggi rispetto alla normale combustione. L'argomento sarà oggetto di un convegno che si svolgerà il 28 maggio presso la Casa della Contadinanza del Castello di Udine, evidentemente a Udine. Il titolo del convegno è Le prospettive della gassificazione in Friuli Venezia Giulia e vede coinvolto il professor Rino Gubbiani, docente di meccanizzazione agricola, che è in linea con noi. Buonasera Gubbiani. Buonasera. Allora Gubbiani, intanto ci aiuti a capire in che cosa consiste un processo di gassificazione. Io ho detto che in qualche modo è imparentato con la combustione. Sì, allora la gassificazione si tratta, ovviamente, come dice la parola stessa, di prendere un materiale solido come biomassa, quindi un legname o una coltura erbacea, e trasformarla quindi in un gas che vada ad alimentare sostanzialmente un motore. D'accordo, quindi perché un gas che brucia a sua volta. Un gas, insomma, che brucia a sua volta, è un gas un po' povero ma comunque brucia. C'è una prima fase di pirolisi in assenza o in carenza di ossigeno, quindi, per cui si utilizza l'ossigeno interno alla biomassa. Quindi c'è calore. Quello che funzionava nelle vecchie carbonaie praticamente. Poi nella fase successiva di gassificazione si formano gas, un po' di idrogeno e CO2, ecco, questi due gas. Monossido di carbonio e delle carbonie. Senta, esatto. In pratica è il calore che scompone nei suoi componenti fondamentali il materiale che viene sottoposto, esatto, a questo processo che si chiama appunto pirolisi. Ecco, che cosa rimane al termine della gassificazione? Ovviamente c'è il gas, e questo l'abbiamo detto. Abbiamo il gas, poi rimane una parte solida, che è char, cioè una carbonella, una specie di carbonella. Ecco, senta, questo char o biochar, che dir si voglia, non è semplicemente però uno scarto, mi pare che abbia un valore commerciale. Sì, tendenzialmente dove hanno adesso gli impianti lo riutilizzano all'interno degli impianti stessi, e però è stato proposto anche qua all'Università di Udine di utilizzarlo nel terreno, in quanto migliora la struttura del terreno e quindi migliora le produzioni. E c'è una direttiva della Comunità Europea in cui il fatto che questo biochar contiene quindi carbonio, quindi recupero della CO2, viene anche pagato. Quanto più o meno? Oh, mi sembra che adesso si trattava sui 500 euro a tonnellata, non vorrei d'accordo. Dire... È che non è mica male, insomma, no. Non è mica male. Senta, quali sono i vantaggi della gassificazione rispetto alla combustione? Perché mi pare evidente che sia comunque un processo un po' più complicato che non dar fuoco alla legna. Il vantaggio è che alla fine, mentre nel processo termico quindi c'è calore, quindi dal punto di vista energetico un prodotto non sempre facilmente utilizzabile, qua abbiamo un prodotto di pregio che è un gas, che è un prodotto pregiato che può essere utilizzato in motori o accumulato, insomma. Le emissioni sono migliori, sono peggiori o siamo lì? Sono migliori se tutto il sistema di pulizia funziona bene. Diciamo che con la tecnologia attuale, con filtri elettrostatici o filtri comunque abbastanza efficienti, le emissioni sono molto basse. Quali sono le biomasse che si prestano meglio industrialmente a questo processo? Industrialmente o insomma in campo agricolo? Attualmente le prove, almeno qua, le hanno fatte quasi tutte sulla legna, perché la tecnologia è nata proprio per la legna. L'idea nostra è di tentare di utilizzare soprattutto anche scarti di potatura, di vite, di olivo che sta prendendo piede nella nostra zona, o paglie o altre cose, così chiaramente si utilizza un prodotto che tendenzialmente viene scartato. Però la tecnologia attualmente è pronta solo per la legna. D'accordo, ecco, lei dice appunto che è pronta, quindi quali sono le dimensioni tipiche di questi impianti e più o meno quali sono anche i costi? Sì, diciamo... È pronta per gli impianti di grosse dimensioni che si utilizzano già per i rifiuti anche urbani, eccetera, eccetera, che sono sul megawatt elettrico. Per piccoli impianti in Italia non ce n'è praticamente, però nei paesi vicini, Austria e Germania, ce ne sono molto che vanno da dimensioni da 30-40 kilowatt elettrici fino a 250. D'accordo. Il rapporto è circa 1-4 tra elettrico e termico. E termico. Quindi 250 elettrico vuol dire un megawatt termico più o meno. D'accordo. E questi impianti costano, attualmente siamo circa sui 4.000 euro a kilowatt elettrico installato. Di potenza esatto, elettrica installata. Di potenza installata. E per questi impianti vengono riconosciuti in Italia 28 centesimi per ogni kilowattora. Vengono riconosciuti 28 centesimi per la filiera, cioè se il prodotto è su terreni PAC, cioè controllati a livello della PAC europea, quindi censiti. Tra l'altro la filiera è proprio uno degli aspetti più critici anche dal punto di vista ambientale, per cui è meglio in fondo avere degli impianti piccoli, perché altrimenti c'è questo problema che è comune a molte biomasse, che se si allarga troppo il raggio entro cui bisogna andare a prendersi la legna si finisce per consumare più carburante. Sì, anche perché la legna è un prodotto energeticamente poco denso, certo, nel petrolio, quindi essendo poco denso ovviamente conviene se le distanze sono piccole. E conviene anche perché la struttura delle nostre aziende agrarie è sostanzialmente piccola ancora, non abbiamo grandi aziende. Però per esempio in Germania e in Austria, lei mi diceva, lì si stanno diffondendo e lì viene pagato anche molto di meno l'energia elettrica. Lì non c'è il conto energia e viene pagata più o meno il costo del kilowattora, che è più o meno 7-8 centesimi a kilowattora, più il costo del certificato verde, quindi si sta sui 15 centesimi. Però loro hanno una struttura fondiaria un po' migliore della nostra e quindi riescono, e hanno un po' più di tradizione dell'utilizzo del legno. D'accordo. Per cui riescono, diciamo, ad avere degli utili. Va bene, forse hanno anche, soprattutto in Germania, un bel po' di foresta più di noi. D'accordo, grazie Gubbiani. Grazie a lei. Grazie anche a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui. Domani recuperiamo la puntata di venerdì, parleremo dei sistemi Dish Stirling. Siamo nel settore del solare termodinamico. Prima di lasciarci un annuncio, da settimana prossima per 5 settimane Mr. Kilowatt si occuperà di normativa. Vi invitiamo allora a segnalarci le difficoltà che avete incontrato, magari di tipo autorizzativo, le curiosità che avete, insomma tutto quello che volete sapere sulla normativa nel settore del risparmio energetico e delle rinnovabili. Buona serata.